Due o tre volte, per la durata d'un istante, pensai che il mondo dove si trovavano quella camera e quelle librerie, e nel quale Albertine era così poca cosa, era forse un mondo intellettuale, e che non ci fosse altra realtà, e la mia pena fosse simile a quella ispiratasi dalla lettura di un romanzo, di cui solo un pazzo potrebbe fare una pena durevole e permanente e tale da protrarsi nella sua vita. Che sarebbe bastato forse un piccolo movimento della mia volontà per raggiungere quel mondo reale, rientrare in esso superando il mio dolore così come si sfonda un cerchio di carta e non curarmi di quel che Albertina avesse fatto, più di quanto ci curiamo delle azioni dell'eroina immaginaria d'un romanzo dopo averne ultimata la lettura. Del resto le donne che ho amate di più non coincisero mai col mio amore per loro. L'amore era vero, perché subordinavo ogni cosa al vederle, all'averle per me solo, e singhiozzavo se una sera le attendevo invano. Ma loro avevano la proprietà di destare quell'amore, di portarlo al parossismo, più di quanto non ne fossero l'immagine. Quando le vedevo, quando le ascoltavo, non trovavo niente in loro che assomigliasse al mio amore e potesse spiegarlo. Eppure, vederle era la mia sola gioia, attenderle la mia sola ansia. Si sarebbe detto che una virtù con cui non avevano alcun rapporto fosse stata loro aggiunta accessoriamente dalla natura e che questa virtù, questo potere quasi elettrico, avesse su di me l'effetto di eccitare il mio amore, vale a dire di dirigere tutte le mie azioni e provocare le mie sofferenze. Ma tutto ciò era completamente distinto dalla bellezza, l'intelligenza o la bontà di quelle donne. Come da una corrente elettrica che fa muovere i corpi, io sono stato scosso dai miei amori, li ho vissuti, li ho sentiti. Non sono mai riuscito né a vederli né a pensarli. Sarei addirittura per credere, lasciando da parte il piacere fisico, il quale del resto li accompagna abitualmente, ma non basta a costituirli, che in essi, sotto l'apparenza della donna, sia alle forze invisibili da cui questa è accessoriamente accompagnata che noi ci rivolgiamo come a oscure divinità. È della loro benevolenza che abbiamo bisogno, è il loro contatto che cerchiamo, senza ricavarne alcun positivo piacere. Durante gli incontri che ha con noi, la donna ci mette in relazione con queste divinità e quasi non fa altro. Abbiamo, a modo offerte, promesso gioielli, viaggi, abbiamo pronunciato formule che esprimono la nostra adorazione e altre contrarie che esprimono la nostra indifferenza. Abbiamo usato tutto il nostro potere per ottenere un nuovo incontro e che ci venisse accordato di buon grado. Ora, per la donna in sé, non completata da quelle forze occulte, ci saremmo forse dati tanta pena, visto che poi, non appena se ne va, non saremmo più in grado di dire com'era vestita e ci accorgiamo di non averla neppure guardata? Che senso ingannevole è la vista! Un corpo umano, sebbene amato, come era quello di Albertine, ci sembra, a pochi metri, a pochi centimetri, distante da noi. È così l'anima che gli appartiene. Ma se solo qualcosa muta violentemente la posizione di quest'anima in rapporto a noi, mostrandoci come essa ami altri e non noi, allora, dai battiti del nostro cuore sconvolto, sentiamo che non a qualche passo da noi, ma dentro di noi, era la creatura adorata. Dentro di noi, in regioni più o meno superficiali. Ma le parole «Questa amica è Mademoiselle Vinteuil» erano state l'apriti sesamo che da solo non sarei mai riuscito a trovare, grazie al quale Albertine era entrata nella profondità del mio cuore straziato. E la porta che si era richiusa su di lei avrei potuto cercare 100 anni senza trovare il modo di riaprirla. Per un istante avevo smesso di sentirle quelle parole quando poco prima Albertine era stata accanto a me, baciandola come baciavo mia madre a Combray. Per calmare la mia angoscia, quasi credevo all'innocenza di Albertine, o almeno non pensavo di continuo a quel che avevo scoperto, a suo vizio. Ma adesso che ero solo, le stesse parole riecheggiavano di nuovo, come i rumori interni dell'orecchio che si sentono non appena qualcuno smette di parlarci. Adesso per me il suo vizio non era più oggetto di dubbio. La luce del sole che stava per spuntare, modificando le cose che mi circondavano, mi ridiede, come se m'avesse momentaneamente spostato rispetto ad essa, una consapevolezza ancora più crudele della mia sofferenza. Non avevo mai visto cominciare un mattino così bello e così doloroso. Pensando a tutti i paesaggi indifferenti che stavano per illuminarsi e che, ancora il giorno prima, m'avrebbero colmato solo del desiderio di visitarli, non potei trattenere un singhiozzo quando, in un gesto d'offertorio compiuto meccanicamente e che mi parve simboleggiare il cruento sacrificio d'ogni gioia che avrei dovuto fare ogni mattina sino alla fine della mia vita, rinnovando solennemente ad ogni aurora il rito del mio dolore quotidiano e del sangue della mia piaga, l'uovo d'oro del sole, come spinto dalla rottura d'equilibrio cui desse luogo, nel momento della coagulazione, un mutamento di densità, spinato di fiamme come nei quadri, lacerò d'un balzo il sipario dietro il quale, da qualche istante, lo si sentiva fremere, pronto a slanciarsi in scena, e ne cancellò, con fiotti di luce, la porpora misteriosa e rappresa. Sentii che stavo piangendo. Ma nello stesso istante, inaspettatamente, s'aperse la porta e mi parve, col cuore in tumulto, di vedere davanti a me la nonna, come in una di quelle apparizioni che avevo già avute, ma soltanto nel sonno. Tutto dunque non era che un sogno. Ahimè, ero ben sveglio. «Ti sembra che assomigli alla povera nonna?» mi chiese la mamma, perché era lei, con dolcezza, come per calmare il mio spavento, ammettendo del resto questa somiglianza con un bel sorriso di fierezza modesta, mai sfiorata dalla civetteria. I capelli in disordine, dove le ciocche grigie non erano affatto nascoste e serpeggiavano attorno agli occhi inquieti, alle guance invecchiate, la vestaglia, la stessa della nonna, che aveva indosso tutto per lo spazio d'un secondo, ma aveva impedito di riconoscerla e fatto esitare fra il pensiero che dormivo e quello che la nonna fosse resuscitata. Da molto tempo ormai mia madre assomigliava alla nonna assai più che alla mamma giovane e ridente della mia infanzia. Ma non ci avevo più pensato. Così come quando siamo rimasti lungamente a leggere, distratti, non ci siamo resi conto del passare del tempo, e tutto a un tratto vediamo che intorno a noi il sole, lo stesso del giorno prima a quell'ora, sta risvegliando le stesse armonie, le stesse corrispondenze che preparano il tramonto. Fu con un sorriso che la mamma mi segnalò il mio errore, perché le era dolce assomigliare tanto a sua madre. «Sono venuta», mi disse, «perché dormendo mi sembrava di sentir piangere qualcuno. Per questo mi sono svegliata». «Ma come mai non sei a letto? Hai gli occhi pieni di lacrime. Cosa c'è?» Le strinsi la testa fra le braccia. «Ecco, mamma, ho paura che tu mi giudichi troppo incostante. Ma prima di tutto, ieri, quando te ne ho parlato, non sono stato gentile con Albertine. Quello che ti ho detto era ingiusto». «Ma che importanza può avere?» replicò la mamma, e vedendo il sole che sorgeva, sorrise tristemente al pensiero di sua madre, e perché non perdessi il beneficio di uno spettacolo di cui la nonna si rammaricava che non godessi mai, mi additò la finestra. Ma dietro la spiaggia di Balbec, il mare, il sorgere del sole che la mamma mi mostrava, io vedevo con moti di disperazione che non le sfuggivano la stanza di Montjouvain, in cui Albertine, rosea, raggomitolata come una grossa gatta e naso sbarazzino, aveva preso il posto dell'amica di Mademoiselle Venteuil e diceva, ridendo del suo riso voluttuoso, «Ebbene, se ci vedono, tanto meglio. Tu credi che non avrei il coraggio io di sputare su quella vecchia scimmia?» Ecco la scena che scorgevo dietro la scena che si stendeva nello spazio della finestra e che si sovrapponeva all'altra come uno spento velo, come un semplice riflesso. Sembrava anch'essa, infatti, quasi irreale, come una veduta dipinta. Di fronte a noi, nel punto in cui sporgeva la scogliera di Parville, il piccolo bosco dove avevamo giocato al furetto esponeva in declivio sino al mare, sotto la vernice ancora tutta dorata dell'acqua, il quadro dei suoi fogliami, come nell'ora in cui spesso, sul finire del giorno, quando con Albertine si era andati lì per una siesta, ci alzavamo vedendo scendere il sole. Nel disordine delle nebbie notturne, che indugiavano ancora in brandelli rosa e azzurri sulle acque ingombre dei cocci di madreperla dell'aurora, passavano barche sorridendo alla luce obliqua che ingialliva le vele e la punta del Bonpresso, come quando rientrano la sera. Scena immaginaria, rabbrividente e deserta, pura evocazione del tramonto che non s'appoggiava come la sera sulle successive ore del giorno da cui ero abituato a vederlo precedere, slegata, interpolata, ancora più inconsistente dell'orribile immagine di Montjovin che non riusciva ad annullare, a coprire, a nascondere, poetica e vana immagine del ricordo del sogno. «Via!» replicò mia madre. «Non mi hai detto niente di male sul suo conto. Mi hai detto che ti annoiava un po', che eri contento d'aver rinunciato all'idea di sposarla. Non è una buona ragione per piangere in questo modo. Pensa che la tua mamma parte oggi e sarà tanto triste di lasciare il suo lupacchiotto in questo stato. Anche perché, povero piccino, ho ben poco tempo per consolarti. È vero che ho già preparato tutto, ma si ha sempre così poco tempo quando si deve partire. No, non è per questo. E allora, calcolando l'avvenire, soppesando bene la mia volontà, giudicando impossibile che una siffatta tenerezza di Albertine per l'amica di Mademoiselle Vinteuil e per così lungo tempo fosse stata innocente, capendo che Albertine era stata iniziata e che d'altronde, come tutti i suoi gesti dimostravano, era nata con la predisposizione al vizio che le mie inquietudini avevano sin troppe volte presentito, al quale sicuramente non aveva mai smesso d'abbandonarsi e s'abbandonava forse in quel momento approfittando d'un istante in cui io non c'ero, dissi a mia madre, consapevole della pena che le procuravo e che lei non mi lasciò scorgere, ma tradì soltanto nell'espressione seriamente preoccupata che le era abituale quando comparava dentro di sé la gravità di darmi un dispiacere o di farmi del male, un'espressione che le avevo vista per la prima volta a Combré quando si era rassegnata a passare la notte accanto a me, un'espressione che in quel momento assomigliava in modo stupefacente a quella della nonna mentre mi permetteva di bere del cognac, dissi a mia madre: «So quanto dolore sto per darti. Prima di tutto, invece di rimanere qui come desideravi, partirò anch'io. Ma questo è niente ancora. Sto male qui. Preferisco tornare a casa, ma ascoltami. Non rattristarti troppo, ti prego. Ecco, mi sono ingannato. Ho ingannato anche te, ieri, in buona fede. Ci ho pensato tutta la notte. Bisogna assolutamente, e decidiamolo subito perché me ne rendo conto benissimo, ora non cambierò più e non potrei vivere altrimenti. Bisogna assolutamente che io sposi Albertine». Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto, quarto volume, Sodoma e Gomorra, letto da Paolo Pierobon, traduzione di Giovanni Raboni, regia Paolo Girella, tecnici del suono Federico Slaviero e Andrea Conti, studio di registrazione Stripe Studio Milano, montaggio Paola Fornasier. Una produzione Emons Audiolibri. Seguiteci su www.emonsedizioni.it e sui social network. Audible ti ringrazia per l'ascolto. A risentirci.